Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti, 7:36 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Cosa si può fare? Stiamo insieme fino alle 10. Cominciamo subito con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8. 349-238-6666 se volete commentare quello che sentite. Facebook si può fare trattino radio 24 oppure Twitter chiocciola si può fare 24. Vai, iniziamo. Allora, eccoci qua, mentre in tempo reale guardiamo con un occhio anche le prove di Formula 1, il primo Gran Premio della stagione in Australia. I due ferraristi Raikkonen e Vettel al momento sono in terza e quarta posizione. Giornali di oggi, cari ascoltatori, che potremmo sintetizzare la giornata di ieri con tre nomi, tre parole: Papa, Europa e Trump. È questo che c'è sui giornali di oggi. Naturalmente non si parla d'altro. La visita del Papa a Roma, il Papa che è il trade union di questa coincidenza di grandi eventi che riguarda il nostro paese, perché il Papa ieri sera ha incontrato i leader europei e gli ha dato un po' una strigliata. Strano che sia un Papa, no? a dare la scossa ad un'organizzazione politica. Vabbè, ma ci siamo abituati a questo e ad altro. Il Papa che invece stamattina è in arrivo a Milano per un'attesa visita, e poi il vertice europeo che in realtà inizia oggi, anche se ieri c'è stato un pre con alcune manifestazioni, incontri e dichiarazioni anche politiche, e poi la prima sconfitta parlamentare di Trump, Donald Trump, che al congresso si è visto bloccare la controriforma sul sistema sanitario annunciata, uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. I democratici cantano vittoria, anche se bisogna dire che questa è una sconfitta interna al Partito Repubblicano, che è diviso in due fazioni, motivo per cui non è stata trovata la maggioranza al congresso per togliere, diciamo, l'obbligo dell'assistenza sanitaria introdotto da Barack Obama, un passaggio epocale per un paese come l'America, dove questa copertura sanitaria per tutti non c'era precedentemente. Però, appunto, ripetiamo, è frutto di divisioni interne al Partito Repubblicano che tengono in qualche modo ostaggio Donald Trump. E così su tutti i giornali i titoli. Cominciamo con il Corriere. Europa non solo protocolli, questa è la strigliata, dicevamo, il richiamo del Papa ai 27. Il Papa incontra i 27 leader, populismi nati dall'egoismo, persa la memoria del muro di Berlino. Il Papa ha detto ci siamo dimenticati dello sforzo che è stato fatto per unire, in effetti solo 28 anni fa, insomma non sono pochissimi, però cadeva il muro di Berlino, 26-27 anni fa iniziava il processo di riunificazione della Germania che terminava pochi anni più avanti, e questo per dire che cosa? Che in soli 20 anni è cambiato completamente lo scenario, perché oggi invece all'interno dell'Europa, ma non solo, si lavora per crearne di muri, per creare delle divisioni. Insomma, un'evocazione suggestiva questa del Papa. Il Papa all'Europa, mai più muri, scrive Repubblica. Francesco ai leader, non solo regole e finanza. Oggi 27 firmano la dichiarazione di Roma. e vi andare. Per la stampa invece il punto da mettere in evidenza è riguarda la giornata di oggi: cortei e Black Bloc, assedio a Roma nel giorno dell'Unione Europea, oggi nella capitale la celebrazione dei trattati con il corteo Europa Stop, che è quello su cui si concentra, diciamo, l'attenzione soprattutto delle forze dell'ordine. 5.000 agenti stanziati dal resto d'Italia oggi a Roma per prevenire possibili problemi, possibili scenari anche di guerriglia urbana, perché non nascondiamocelo, insomma, che in passato anche Roma è stata teatro di manifestazioni molto con molti scontri. La possibilità di infiltrazione dei Black Bloc è elevata e qui staremo a vedere, ma insomma, siamo sicuri che andrà tutto regolarmente. Però ecco, le preoccupazioni, insomma, gli allarmi, l'allerta non manca. Per Avvenire invece in primo piano sono naturalmente le parole del Papa, che dice: l'Europa ritrovi la speranza, lavoro e solidarietà, la risposta ai populismi. Leader europei in Vaticano, oggi il vertice per i 60 anni del Trattato di Roma. L'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire, essa è una vita, un modo di concepire l'uomo a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile. Così Francesco ha ricordato ieri ai leader dell'Unione Europea riuniti a Roma l'ispirazione iniziale dei padri fondatori. Già, perché c'era un'ispirazione iniziale, c'era una ispirazione di valori, no? L'umanesimo, la persona al centro, l'economia liberale e sociale, eccetera, eccetera. E vabbè, insomma, in effetti forse proprio un papa poteva avere la forza in qualche modo di, non so per quante ore durerà questo afflato, non so chi ha coinvolto, pochi, forse chi ha ascoltato con un minimo di attenzione i titoli dei telegiornali sta leggendo, leggerà nelle prossime ore i giornali, o anche insomma su internet. Il Papa è sempre un titolo, no? Però questa evocazione è abbastanza forte, significativa. Su questo, che altro dire? Un sondaggio su Repubblica e anche l'intervista a Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Europea, sul Corriere. Il sondaggio dice questo, che insomma ce lo si può immaginare, il calo di fiducia della popolazione dell'Unione Europea, non solo l'Italia, nei confronti delle istituzioni europee, che però non è lo stesso ovunque, perché in Ungheria per esempio sta aumentando la fiducia nell'Unione Europea, stranamente, dal 57 al 60% dall'anno scorso a quest'anno. Anche in Germania c'è un lieve aumento, dal 53 al 55%, ma se guardiamo invece in prospettiva rispetto al passato, vediamo che la fiducia nell'Unione Europea, che in Italia era al 73% nel 1998, qui stiamo addirittura in una fase pre-euro, si è dimezzata oggi a un 34%. Può essere interessante vederla in questa prospettiva. È stata fatta una domanda a cittadini dell'Unione Europea da parte di Demos e si è chiesto un'opinione su questa frase: l'Europa è un obiettivo giusto realizzato nel modo sbagliato, cioè l'obiettivo dell'integrazione, del far cadere i muri, della libertà di circolazione delle persone, eccetera, è un obiettivo giusto che però è stato in qualche modo tradito dalle regole che sono state messe in piedi in questi anni? Ebbene sì, la stragrande maggioranza degli europei dice esattamente questo: l'83% in Italia, l'82% in Germania, il 79% in Francia, Ungheria e Spagna. Cioè a dire che in qualche modo sotto traccia, latente, forse l'obiettivo dell'Unione Europea è ancora lì ad attenderci, è stato tradito. La domanda è se è recuperabile questa fiducia, oppure se invece hanno ragione gli anti-europeisti, le Le Pen, i Salvini, o quelli che insomma in qualche modo dicono più o meno apertamente che si starebbe meglio senza Europa. La intervista al vicepresidente della Commissione Dombrovskis, che sta lavorando a un libro bianco di proposte sul futuro dell'euro da presentare a maggio. Quali sono le sue priorità? Domanda Fubini sul Corriere. E risponde Dombrovskis: l'unione monetaria si è già rafforzata, lo abbiamo visto con la crisi greca del 2015, l'area dell'euro ha resistito meglio che nel 2010-2011, quindi l'area euro oggi è già più resistente di come era 5 anni fa. Quindi su cosa puntate? Va rilanciata la convergenza economica tra paesi nell'area euro. Potremmo pensare, dice Dombrovskis, ad una protezione degli investimenti. Servono strumenti finanziari per sostenerli nei paesi dell'euro che subiscono shock economici specifici. Già, vero, perché sapete benissimo, sappiamo benissimo tutti che la crisi dei bilanci ha ristretto i rubinetti degli investimenti, che però sono stati per tanti decenni il motore dello sviluppo e quindi dell'occupazione, quindi dei salari, dello stipendio di tutti noi. E allora, strumenti di protezione degli investimenti si immaginano. E poi esaminiamo, dice Dombrovskis, scusate ma Dombrovskis mi manda in palla, esaminiamo anche l'idea di un programma europeo di assicurazione contro la disoccupazione. E questo sappiamo che è un altro tema sensibile da parte di, per esempio in Italia, il Movimento 5 Stelle. È un partito che ormai veleggia intorno al 30%, un terzo degli elettori, quindi vorrebbero un sistema di protezione di questo tipo. E dice Dombrovskis: ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda l'Italia, la manovra correttiva richiesta per stare nei parametri del bilancio, 3-4 miliardi di euro, va fatta entro aprile o basta presentarla? Domanda delle 100 pistole. Ci aspettiamo, dice il commissario alla stabilità finanziaria dell'euro, che sia approvata entro aprile. Quindi niente scherzi. Traffico, torniamo tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. E allora, cari ascoltatori, ben ritrovati, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E abbiamo letto, insomma, su alcuni giornali alcuni approfondimenti sul vertice europeo, iniziato sostanzialmente ieri, anche se le celebrazioni per l'anniversario dei trattati di Roma ci saranno effettivamente soltanto oggi, qualche altro titolo, perché ci sono anche altri punti di vista. Per esempio il giornale scrive: vertice di Roma, divisi e super blindati, è il giorno dell'Eurotta, l'Europa a pezzi compie 60 anni nel terrore degli scontri. Nicola Porro: la regola dell'invidia che affonda l'Unione, scrive: inutile girarci intorno, il 60° compleanno dell'Europa comune che si festeggia oggi a Roma non vede una famiglia unita e solidale, i parenti si guardano in cagnesco rinfacciandosi problemi e mancanze. In questo gioco di trattative, di dichiarazioni, di trattative più o meno sotterranee, ieri la Polonia ha annunciato che voterà a favore della dichiarazione finale del vertice. Resta da capire se è la dichiarazione che sia annacquata o se invece è la Polonia che ha deciso di allinearsi. Vedremo oggi sui contenuti di questa dichiarazione finale, che può avere il senso di una ripartenza su contenuti, su basi nuove dell'Europa, può avere anche il senso dell'ennesimo rituale inutile, vuoto. L'Europa ormai, scrive Libero, è il luogo più pericoloso al mondo. Allarmante denuncia della NATO, il comandante delle forze alleate dice: troppi terroristi, la minaccia di attacchi è altissima, svanito il sogno di una unione pacifica, fallite le politiche sugli immigrati, l'Europa va battuta. Certo che è un punto di vista anche questo, ma insomma l'allarme sulla sicurezza mi sembra che sia un problema pochino più che europeo, riguarda tutti i paesi al mondo. Anche l'Inghilterra, che ha annunciato la Brexit, ahimè è stata colpita appunto da un attentato, quindi sarebbe a dire che ci azzecca, direbbe Di Pietro, l'Europa. Però è un punto di vista anche questo, naturalmente, ma lasciamo quindi la coda delle questioni europee e vediamo qualche altro titolo sugli altri argomenti. La sconfitta di Trump, tradito dai repubblicani, resta la sanità di Obama. E ancora, fronda repubblicana a Trump, l'Obamacare resta in piedi per la stampa. La foto notizia è Trump con le mani sul volto, gli occhi momentaneamente chiusi. Sanità, primo smacco per Trump, ed è questo in effetti una sconfitta. Di che si tratta velocemente? Si tratta di questo: nel 2010 Obama firma la legge della riforma sanitaria. Tra i cambiamenti c'è l'aumento del numero di persone tutelate dal sistema sanitario, 32 milioni di persone in più con l'obbligo quindi di una assicurazione sanitaria. Se passasse invece la Trump Care, annunciata in campagna elettorale da Donald Trump, allora candidato presidente, le persone coperte da assicurazione sanitaria si ridurrebbero di 14 milioni l'anno prossimo, 21 milioni nel 2020 e 24 milioni nel 2026. Praticamente sarebbe un ritorno indietro al passato quasi completo, quasi integrale. Il naufragio, però, scrive la stampa, è figlio della mancata composizione tra opposti schieramenti repubblicani rimasti arroccati sulle rispettive posizioni. E quindi è una divisione interna ai repubblicani, non c'è una maggioranza democratica al congresso, assolutamente. Sulla questione invece di Londra, le indagini che riguardano quello che è accaduto, ci sono, sapete, ieri è stati degli sviluppi, l'attentatore si chiamava Khalid Massoud, ma in realtà si chiamava in un altro modo, perché Adrian Russ, aspettate se trovo il nome, aveva un nome inglese, insomma, Adrian Russell Massoud, non è sempre stato Massoud, scrive Repubblica, adesso ve lo leggo, quel nome lo ha scelto dopo la conversione all'Islam nel 2005, all'anagrafe è registrato come Adrian Russell Helms, e appunto quindi era un britannico di colore, britannico a tutti gli effetti, nel 2000, 36 anni, per un'aggressione in un pub dove ha accoltellato una persona, è stato arrestato, si è fatto 2 anni di carcere, forse qua si è radicalizzato, dicono gli inquirenti, o forse si è radicalizzato in un viaggio di lavoro che ha fatto in Arabia Saudita, tant'è nel 2005 si converte all'Islam, sposa una donna musulmana, Farzana Malik. Adrian diventa Khalid Massoud, diventa padre, impone alle moglie di indossare il velo e cambia tutto. Come sempre l'Islam come ideologia quasi di purificazione che dà risposte ai problemi di personaggi come questo, un personaggio non so come definirlo, sballato, ma insomma certo è uno che aveva quantomeno avuto dei precedenti penali. Mi sa che siamo in chiusura. Allora niente, prova positiva ma non troppo convincente quella dell'Italia ieri sera con l'Albania, gol, Italia gol, scrive la Gazzetta dello Sport, De Rossi è immobile, 2 reti per tenere il passo della Spagna, in classifica infatti adesso abbiamo gli stessi punti della Spagna, 13, mancano però ancora 5 partite alla fine del girone di qualificazione per i mondiali. Qualificazioni di Formula 1, Vettel secondo, Raikkonen quarto, giornale radio, ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E 21 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato. Inizia un nuovo weekend su Radio 24, un weekend Roma-Milano a fare da Tredunion il Papa. Il Papa perché a Roma comunque, tu dici, a Roma in realtà è Europa. Roma è Europa, Milano è Europa. 60 anni, no, dico a Roma si festeggiano sì. I 60 anni dell'Unione Europea e a Milano invece c'è in visita il Papa. Però mi sono sempre perso qualcosa. No, è così, è sempre lui però a far notizia, insomma, è sempre il Papa. Certo. Infatti ci ho messo meno a venire perché salta la fermata di Duomo, così agli ascoltatori milanesi che ci stanno sentendo glielo diciamo. Salta, nel senso che non si ferma, ovviamente farla, è obbligata a farla perché la metropolitana, il binario è quello. Perché oggi il Papa sarà anche in Duomo, sarà poi a Monza, sarà San Siro. Quante cose deve fare un Papa, eh? Tanti impegni. Ieri con i leader europei, oggi 70.000 persone aspettano a Monza, 80.000 a San Siro. Cavolo, che responsabilità. Milano, che Monterosa, Milano-Monterosa, sole, è venuto fuori un bel sole e ne siamo molto contenti. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori anche questo sabato mattina per stare insieme, per commentare quello che sentite, per raccontarci le vostre buone notizie, ma anche per giocare con noi. E insomma, quest'oggi, visto che insomma il signor De Luca continua a regalarci si fa per dire perle di stupidaggini varie eventuali, ha dato della chiattona alla capogruppo del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle in Campania. Insomma, non è la prima volta che De Luca le spara, però giudizi politici puoi dire tutto quello che ti pare sul Movimento 5 Stelle, ognuno, siamo in un paese maturo e libero, però quando poi arrivi all'offesa... L'insulto fisico non vale. È ingiustificato. Deve non chiedere vale, scusa, vigliacco. Dovrà chiedere scusa, no? E poi del resto è capitato a tutti prima o poi di sparare una bomba e poi di rendersi conto, no, vabbè. Beh, dai, stavolta devo chiedere scusa. Ho esagerato e devo chiedere scusa. Quindi, cari ascoltatori, all'800240024, quella volta che avete fatto voi retromarcia, che magari vi è costato perché però non potevate fare altrimenti, avete chiesto scusa. Ci aggiungo anche, sempre per i nostri ascoltatori, in questo caso De Luca dice questa parolaccia durante un'intervista, quindi non è un audio rubato, però a parte la parola chiattona che era legata alla Merkel, Berlusconi, quindi sia questa parola sia in generale in tutti questi, in questo periodo di intercettazioni, spesso capita che uno magari al telefono oppure non visto, in un momento in cui non sa che la persona è al di là del muro, dice delle cose brutte nei confronti di qualcuno che conosci. Vi chiediamo anche questa: quando vi è successo di dire per sbaglio a un vostro amico al telefono un brutto apprezzamento su una persona che invece l'ha sentito, l'ha ascoltato e ve l'ha fatto notare? 800 24 00 24, tra poco. Go to a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make plans, you're broke. No, no, this can't be right. I know the times is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen Parliamo di azzardo, torniamo a parlarne. Sapete che a noi questa questione ci sta molto a cuore perché abbiamo conosciuto, abbiamo intervistato tanti baristi che hanno deciso di rinunciare per esempio alle slot machine nei loro bar perché volevano bar nei quali si beve il caffè, si parla, si socializza, la gente entra tranquilla e serena, no? E non gente che soffre o sfascia le famiglie. Esatto, che stanno in quest'angolino buio in genere a giocare. Si chiama gioco, ma non c'è molto da ridere, no? Evidentemente questi baristi hanno visto qualcosa che noi umani non abbiamo visto. Che cosa fanno però le istituzioni? Allora, i comuni, in tanti casi, lo sappiamo, gli vanno incontro, danno delle agevolazioni a questi baristi, fanno delle limitazioni orarie per il gioco, eccetera, eccetera. Ma lo Stato che fa? E qua diventiamo anche noi oggi un po' populisti. No, vabbè, devo autodenunciarmi. Intanto io sono meno critico nei confronti in generale della questione del gioco e soprattutto ieri ho beccato 3 numeri al Super Enalotto, quindi sono un po', mi sento un po' in colpa adesso a parlare di gioco. Però di quanto hai vinto? Di quanto 33 hai vinto? Euro. Quanto hai speso dall'inizio dell'anno? Di più di sicuro. Non facciamo le somme, meglio di no. Cosa fa lo Stato? Lo Stato dice: sì, c'è la ludopatia, bisogna intervenire, faremo una legge, ma la legge non arriva. Intanto entrano i soldi perché gli incassi dell'azzardo sfiorano ormai 10 miliardi di euro all'anno. Poi è scoppiato questa settimana il caso di un emendamento che avrebbe sostenuto i comuni che cercano di limitare le slot, però questo emendamento è sparito. E allora noi abbiamo chiamato Carlo Rienzi, presidente del CODA Consum. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Per aiutarci a capire un po' che cosa fa lo Stato, il governo, il Parlamento, cosa prevedeva Rienzi questo emendamento che avrebbe potuto dare una mano a questi baristi che coraggiosamente anche rinunciano a dei guadagni, perché bisogna dirlo, cioè qui sono 5, 6, 700 o a volte 1000 euro al mese che queste persone rinunciano perché evidentemente non vogliono più avere a che fare con quel tipo di azzardo, ma nessuno gli sta dando una mano in questo momento. Cosa c'era nell'emendamento che invece poi è stato cancellato, Rienzi? Ma non è solo il problema dei bar, che potevano essere aiutati quelli che eliminavano le slot, perché si dice che si devono eliminare, lo dice lo Stato ma non lo fa. Il problema è proprio la possibilità per i comuni di fissare distanze minime di queste micidiali sale dove si gioca e si impazzisce, perché non c'è la luce naturale, non c'è l'aria, ti accorgi che dal giorno sei passato alla notte giocando. Le sale slot, no? Sta dicendo l'ludopatia. E questo i comuni avrebbero potuto e dovrebbero potere, come dice la giurisprudenza, il TAR, il Consiglio di Stato, dire vabbè, limitiamo l'orario di queste sale, per esempio chiudiamole nell'ora in cui escono i ragazzi dalle scuole superiori, che sennò finiscono tutti lì dentro. Chiudiamoli la sera alle 22, non facciamo che siano aperte 24 ore su 24. Sapete che addirittura a Napoli, quando il sindaco ha limitato questi orari, si sono passati fra di loro i gestori delle mail in cui dicevano mi raccomando, non rispettiamo questi ordini, facciamo come ci pare e non chiamate, se succede qualcosa, perché era successo un incidente in una sala, avevano chiamato la polizia che aveva detto ma voi dovete stare chiusi, e allora hanno detto se succede qualcosa non chiamate la polizia, cioè abbiamo documenti ufficiali di una situazione criminosa incredibile. Perché poi è questo il punto, no? In questo far west di ordinanze comunali in assenza di una legge nazionale, e poi rischia che si creino squilibri tra un comune e l'altro, turismo da slot, operatori illegali che ci sguazzano, anche questo lo sappiamo, stavo dicendo anche lei, no, Rienzi? Certo, ma perché? Perché c'è una legge di quasi ormai 10 anni fa che diceva che bisognava fissare regole uguali per tutte, limitando queste slot e mettendole a distanza, che ne so, dagli ospedali, dalle scuole, dai centri anziani, eccetera, eccetera. Questa legge, noi abbiamo fatto addirittura un ricorso al TAR, abbiamo avuto una sentenza che ha detto che lo Stato la doveva realizzare. Quando è uscita la sentenza, loro ne hanno fatto un'altra e hanno detto ma ormai quella legge l'abbiamo abrogata, adesso ne hanno fatto un'altra ancora, ma non fissano queste regole minime né sulla pubblicità, per cui siamo inondati da pubblicità sul gioco d'azzardo, che è una cosa proprio incivile, cioè dire alla gente in televisione vai a giocare, puoi vincere, abbonati, ti regaliamo 50 euro. Ma addirittura c'è stato il caso, Rienzi, il caso della Nazionale, sponsorizzata da una società di scommesse, insomma, le abbiamo viste di tutti i colori. Ma sbaglio se dico che... Totti che fa la pubblicità. Totti che dovrebbe smetterla di fare quella pubblicità, secondo noi, lo diciamo in amicizia, ma sbaglio dicendo che sostanzialmente non c'è un governo in carica che abbia avuto il coraggio di rinunciare a questi quasi 10 miliardi di euro l'anno di introiti fiscali che arrivano dall'azzardo. Il punto è perché è logico, è cioè, tu come puoi chiedere a chi campa sui soldi dei giocatori di privarsi dei soldi dei giocatori? Ci vorrebbe un'estrema sensibilità. La commissione antimafia, per esempio, pare sensibile, lo ha scritto, non se ne può più, bisogna limitare, eccetera. Ma i governi, quando vanno a fare i conti e vedono che hanno bisogno di soldi, dove li trovano? Dove è più facile? Quindi benzina, accise e gioco d'azzardo, perché tanto il gioco è un consumo anelastico, non è che diminuisce se tu aumenti, che ne so, l'imposta e quindi fai vincere di meno i giocatori e andare più soldi allo Stato, per cui se ne fregano altamente. E credo che forse sia stato il migliore, sia stato il governo Berlusconi un certo periodo, da quando è venuto il governo Renzi praticamente. Cosa ha fatto? Scusate, il governo Berlusconi ne ha azzeccata una, quale, Rienzi? Notizia, il governo Berlusconi ne aveva azzeccata una, quale? No, aveva azzeccato perché aveva fatto la famosa, Balduzzi soprattutto, aveva fatto quando era ministro della Sanità, salute, aveva fatto una legge buona, buonissima, che poneva limiti a questa situazione, reali, efficaci, che poi sono saltati con il governo Renzi, sono tutti saltati. e non c'è nessuna speranza di rivederli, secondo me. Ormai solo i comuni, ripeto, sia pure nella giungla, come dite voi, sì. Beh, c'è, hanno la possibilità, c'è Napoli, di no, Rienzi, c'è, però c'è Verona, c'è Milano, c'è Parma. Però mi scusi, io sono assolutamente d'accordo sul problema gravissimo della ludopatia. La cosa che mi chiedo è, in un momento come questo, dove si dice che non ci sono nemmeno i soldi per mangiare, e i bisogni e tutti i problemi che ci sono, io mi chiedo come si può chiedere allo Stato di rinunciare a 9 miliardi di euro annui. Ma non è questa la richiesta, si tratta di limitare, cioè di creare una situazione di gioco responsabile, cioè eliminare. Beh, in qualche modo terribili. Immagino di far giocare meno anche, giustamente, ci mancherebbe. Meno, giocare poco, giocare e più responsabilmente. Ma non far giocare in queste sale senza luce, senza luce naturale, senza aria, gente che poi esce e desidera ammazzare i genitori per prendere i soldi per poter andare a rigiocarci. Abbiamo avuto episodi terribili tutto questo. Allora si tratta di regolamentare in un modo intelligente. Ma questo assolutamente, la cosa che per provocazione le volevo chiedere, che quasi voi dovreste trovare un modo di consigliare allo Stato un altro modo per tirar su dei soldi, altrimenti ho la sensazione che non faranno niente e appunto faranno sparire gli emendamenti, perché alla fin fine questi soldi servono, immagino. Certo. Infatti noi abbiamo consigliato già allo Stato di limitare il gioco negli orari, quelli che si offrono ai giovani soprattutto, e soprattutto non giocare anche la notte, di limitare la presenza e la quantità di sale, di limitare, perché guardate che tra poco avremo 35 miliardi di tablet, di smartphone dove si potrà giocare online, anche dando generalità false probabilmente, per quel ragazzo potrà giocare. Sta toccando un punto molto preciso, nel senso che non sembra una guerra un po' difficile nel momento che uno dice chiudiamolo nell'orario dell'uscita dalle scuole, quando si può tranquillamente giocare online, quindi è assolutamente 24 ore su 24. Cioè, ma qualcosa bisogna fare, bisogna educare la popolazione, penso. Bisogna educare la popolazione, perché se io posso giocare sul mio smartphone non me ne fregherà più niente se la sala giochi è più lontana di 500 metri, oppure se chiude alle 22, oppure se fa la pausa pranzo, o sbaglio? Infatti, l'educazione innanzitutto, ma vedete per caso il Ministero della Pubblica Istruzione che dice nelle scuole spiegate ai ragazzi che il gioco è pericoloso e non si vince con il gioco? No, non lo vedete, direi di no. Quello fa parte del consiglio dei ministri. È giusto, molto giusto. Senta, ma Rienzi, ma questo esposto, no? Questo esposto che voi avete fatto, questa denuncia, scusi, che avete fatto, che esiti potrebbe avere la denuncia che avete fatto? Ma non credo che manderemo in galera qualcuno. Nessuno, però è un segno di uno sdegno, cioè praticamente hanno tolto un emendamento che poteva essere utile per limitare questo gravissimo fenomeno che crea persone come per il fumo, come per la droga. No? Ma esiste, il reato di Rienzi esiste, sì, perché voi avete denunciato per istigazione al gioco d'azzardo il sottoscritto, sì, quindi esiste questo tipo di reato in Italia? Certo, il gioco d'azzardo esiste e quello che si fa nelle sale slot è gioco d'azzardo. Solo che essendo legalizzato, sì, non viene punito penalmente. Però se si gioca fuori orario e c'è un ordine di chiusura, diventa di nuovo reato. Ecco perché servono queste misure su cui nessuno vuole intervenire. Ringraziamo questi 40 sindaci, diciamo, che su 800 hanno avuto il coraggio di prendere questi provvedimenti, che noi aiutiamo a difendere, perché poi li impugnano al TAR, al Consiglio di Stato, perché cercano di... Ovviamente dicono i gestori non vogliono limitare i loro guadagni, ma ringraziamo perché danno un segnale alla loro popolazione dicendo guardate, vi stiamo aiutando a non morire, a non star male, a non andare, adesso addirittura una malattia riconosciuta nei LEA, quindi la ludopatia, la dipendenza da gioco, certo, che significa riconoscere che è una malattia. E come si fa a dire e soprattutto, ti apro la sì, sala per ammalarti e poi te curo, esci e ti butto nell'ospedale per curarti? E soprattutto danno una mano anche a quei gestori di bar, di attività commerciali che hanno deciso di rinunciare spontaneamente, perché questo secondo me è un fatto clamoroso che si sottovaluta. Baristi che rinunciano a guadagni, i baristi non sono certo una categoria che si arricchisce molto facilmente, lo sappiamo benissimo, e rinunciano a questi guadagni perché evidentemente avere la slot machine nell'angolo del bar con tutto quello che comporta, non è una cosa che è più tollerabile per molte persone. Io credo che a questi baristi bisogna dare un incentivo, dare una mano, e quindi la legge speriamo che arrivi, speriamo che la vostra denuncia, Rienzi, serva a qualcosa. Grazie al presidente del Codacons intanto per essere stato grazie. Con noi. Ragazzi, ricordiamoci che spendiamo 1.500 euro all'anno in media a persona per giocare, tutti i soldi buttati via più o meno, perché poi alla fine vince sempre il banco, si sa, e quindi insomma, diamoci una regolata. 800 24 0024, a tra poco. Quando sono le 8 e 43 minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati a tutti. Andiamo con Umberto che chiama da Piacenza. Ciao Umberto. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora, avete chiesto di insomma, situazioni in cui si offende qualcuno e poi inevitabilmente bisogna chiedere scusa. E credo che De Luca prima o poi debba farlo, nei confronti di questa consigliera regionale delle 5 Stelle. A te Umberto, cosa è accaduto? Per De Luca, almeno recupera un pezzettino di faccia, via. Sì, sì. Allora, a me cos'è successo? Io sono un musicista, 25 anni fa, è una cosa che risale a 25 anni fa, però per me è stata una cosa abbastanza importante. Immaginiamo, se sono passati 25 anni e finalmente vuoi fare coming out, noi ne siamo felici. Siamo qua. Vabbè, dai, insomma, meglio tardi che mai, però... Bravo, bravo. Cos'è successo? Che, allora, nell'ambiente dei musicisti ci si incontra, si chiacchiera, si racconta quello che si fa. Un po' in tutti gli ambienti, anche in quella dei dentisti. Anche ai non musicisti, però insomma, voi musicisti di più, vai Umberto. Beh, insomma, sì. Cosa succede? Che c'era un ragazzo che suonava la batteria, suona tuttora la batteria, ma non era, poverino, molto dotato. Però aveva una dote che tutte le volte che incontrava qualcuno gli faceva una giacca allucinante, cioè non lo mollava più raccontando di quello che voleva fare, insomma... Attaccava dei gran pipponi, noi diciamo. Gli faceva una giacca, è bellissimo. Fare la giacca comunque è molto bello, te lo rubo questo qua, non l'avevo mai sentito. E quindi allora, era l'epoca di Terminator, sì. Noi lo chiamavamo lo Stress Minator. Va bene. Ecco, e allora praticamente cosa succede? Che una sera lo incontro e questo mi ha tirato un pippone allucinante e io impietosamente proprio l'ho guardato e gli ho detto in dialetto della mia città, gli ho detto tu sei uno zero, cioè gli ho detto tete zero, sei uno zero. Ah, così secco proprio, cioè colpo basso all'improvviso, senza... No, veramente una bastardata mia, perché era veramente, cioè, inutile. Cioè avevi trattenuto Umberto talmente tanto prima che poi ti è scappata così, ma malamente. Sì, il fatto è che io ho visto negli occhi di questo ragazzo non l'offesa, proprio la ferita, ci è rimasto d'un male, ma d'un male che... Me ne sono reso conto subito e mi sentivo veramente una... Ma gli hai chiesto scusa subito? No. Perché ma poi vi siete rivisti? Anni dovevo un attimo reggere la mia parte, sì. E perché sei più giovane, sei arrogante. Ma quanto tempo dopo hai chiesto scusa? Dopo qualche giorno. L'ho rincontrato e è stato più forte di me. Proprio. Però tu sei, Umberto, detto, tu sei una persona buona, perché intanto ti sei fatto uno scrupolo per aver detto a uno che attaccava dei gran pipponi a tutti ed era noto per questo, sei uno zero. Non è che gli hai detto... Che è pur sempre un numero, volevi dire. Ma sì, cioè, sei uno zero. Ma esatto, anche il titolo di una trasmissione radiofonica. Poteva andargli anche peggio, insomma. Quindi poi ti sei fatto scrupolo di questa cosa e qualche giorno dopo hai chiesto scusa e quindi ci sta. Grazie Umberto. Grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Il nostro primo ascoltatore che si iscrive al concorso di oggi, 800 24 0024, quella volta che non avete potuto fare a meno di chiedere scusa, come dovrebbe fare verosimilmente il governatore De Luca. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Thank you. bene, intanto l'ascoltatore che al 349-238-6666 commenta a proposito dell'intervista con Rienzi sulla questione dell'azzardo e la denuncia che ha fatto il Codacons al sottosegretario Baretta per istigazione al gioco d'azzardo. Le contraddizioni, sono d'accordissimo con lui, folli del nostro paese, solo 4 casinò in Italia dove la gente va con parsimonia lasciando un documento, ma centinaia di migliaia di bar e sale slot. E poi ancora l'elenco, no ai postriboli ma strade web piene di prostituzione ed escort, fuori dai controlli, no marijuana, sì alcol e tabacco. Così. Così è un elenco. Però ha ragione, infatti a Rienzi gliel'aveva voluto chiedere, ma non si stava meglio quando si stava peggio con qualche casinò? Magari più casinò di quelli che c'erano una volta, ce n'erano pochi, dove uno va tranquillamente, entra e fa quello che vuole, gioca. Però cioè, ci devi dici, andare. Gioca l'azzardo, esiste, esistono i luoghi deputati, esatto, e ci devi andare. Giochi. Però in giro per strada ogni 3 minuti di incontrare delle stanzette dove bravo. Puoi andare a buttare dentro tutto il tuo stipendio sperando di diventare molto ricco, è troppo pericoloso. Dove ti giri, chiudono cinema, teatri, ristoranti, negozi di qualunque tipo e aprono solo che sale slot. Vabbè, allora, ascoltatori, 800 24 00 24, se vi ha convinto Rienzi chiamateci e intanto però siamo con una bella iniziativa che viene da Pavia, dove la cooperativa Arche e nel negozio il Balancine di Corso Garibaldi, nella centralissima strada di Corso Garibaldi, fa il pane sospeso, come a Napoli il caffè sospeso, ma in questo caso pane, una amichetta che uno può comprare e lasciare nel negozio e poi chi ne avrà bisogno passerà a prenderla. Tra l'altro nel giorno in cui è scattata la denuncia per chi ha dato da mangiare per strada ai migranti a Ventimiglia. E va bene, è questa l'Italia. Francesca Burchielli della cooperativa sociale Arche di Pavia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuta. Allora, è giusto che quello che diceva Carlo, cioè questa idea del pane sospeso è un po', nasce un po' da quello che l'idea di Napoli del caffè sospeso. Esatto. È così? Esatto, l'idea è nata, diciamo, da questa cosa. Abbiamo voluto provare e dire perché no, perché non fare comunque il pane sospeso e poi più avanti comunque pensiamo di fare anche la spesa sospesa. E come funziona lì da voi? Funziona. Allora, funziona così, i clienti che arrivano da noi lasciano un panino, cioè acquistano un panino e lo lasciano in sospeso per le persone che comunque ne fanno richiesta. Speriamo che non stia lì sospeso per troppi giorni, perché se no... Non credo, direi che visto il momento rimane sospeso molto poco. Pochi secondi, tac, arriva subito qualcuno. Come sta andando in realtà questa iniziativa? Ma abbastanza bene, comunque cioè, se avanzano dei panini, cioè noi li portiamo comunque la sera... C'è ci sono delle suore qui vicino, comunque li portiamo da loro la sera, quello che ci avanza comunque lo portiamo da loro. Quindi se nessun cliente in giornata, se nessuno esatto. lascia il pane sospeso, l'amichetta sospesa, il sospesino lo fate voi, cioè ce lo mettete esatto. voi. No, in realtà questi sono gli avanzi, giusto? Nel sì. senso che giustamente il fresco giusto. Che ha in chiusura, voi lo portate e lo consegnate. Esatto, lo portiamo comunque alle suore, cioè non viene buttato in assoluto, siamo comunque contro lo spreco, cerchiamo di non buttare via niente. Bello, bravi. E mediamente grazie. In una giornata da quando è iniziata questa vostra proposta del pane sospeso, quante persone? Quanti panini vuoi quanti sapere? Panini, contiamo sì. i panini. Diciamo capire... che una 4-5, comunque cioè, sono sempre entrate le persone che ci chiedevano qualcosa da mangiare, noi abbiamo sempre dato qualcosa e poi dicevamo sempre di venire. Sì, però qua vedi la differenza è che non ce lo dovete mettere sempre soltanto voi, perché per un'attività commerciale poi rischia di diventare anche antieconomico, no? Se devo esatto. regalare sì. una quota del mio prodotto, invece qui sono proprio le persone, perché alla fine un'amichetta quanto costa? Non tanto, no? Ma no, saranno sui 40 centesimi, 50 centesimi più o meno. Non più di tanto. Faccio l'anziano, che comunque è tantissimo, perché sono delle vecchie 1000 lire, giusto? Una amichetta 1000 lire è tantissimo. Beh, se la metti così, sì. 40 centesimi sono 50 centesimi sono 1000 lire. Ma stai insomma. Ancora lì con le lire? Io ma sì, sono anziano, lo sapete. No, in realtà trovo che sia un'iniziativa molto buona, anche perché perlomeno a Milano, davanti a quasi tutte le panetterie, in realtà ci sono ragazzi immigrati che chiedono anche l'elemosina e spesso entrano per per chiedere anche da mangiare. Quindi io mi sono spesso chiesto questa cosa, nel senso che un panettiere, certo che ti può dare una michetta, che cos'è, due michette, tre michette, però a un certo punto non è che può regalare tutto il pane che ha. Quindi il fatto che una panetteria decida di suddividere, condividere il fatto di dare il cibo ai bisognosi mi sembra una bella operazione. Grazie. Complimenti, Francesca Burchielli. Grazie. Allora, facciamo un po' di pubblicità dalle parti di Pavia. Andate tutti in Corso Garibaldi, che mi risulta essere centrale, una strada centrale della sì, città. Esatto, sì, sì. È una zona pedonale. Quindi fate due passi, tac, andate a comprare il pane al Balanzin. Tra l'altro è tutto un distretto solidale, giusto? In Corso Garibaldi, giusto, lì accanto c'è giusto. Appunto c'è il Balanzin, poi c'è la bottega del commercio. Abbiamo noi Frescafe, poi c'è il Soggia Caffè. E poi sì. Davanti c'è l'associazione Presi nella Rete. Esatto. Siamo comunque un distretto, esatto. Va bene, Francesca Burchielli, complimenti della cooperativa Archel. Il negozio si chiama il Balanzin a Pavia e l'iniziativa è quella del pane in sospeso. Tra l'altro questa settimana il Bloomberg Global Health Index ci ricorda che la dieta mediterranea, che è fatta anche di pane, di nostro caro pane, caro l'hai sottolineato per i 50 centesimi, è il trucco per un elisir di lunga vita, perché l'Italia è risultata prima nella classifica dei paesi più in salute a livello mondiale. E quindi si parla di salute fisica, null'altro, vero? 800 24 00 24, cari ascoltatori, da tra poco, anche con le vostre scuse, quando vi è toccato, come dovrà fare prima o poi il governatore De Luca, di chiedere scusa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi. Ciao a tutti, comunicazione importantissima. Il 25 marzo alle 20:30 partecipa anche tu all'Ora della Terra, che è il più grande evento globale del WWF, e consiste nel fatto che in tutto il mondo si spegneranno simbolicamente le luci per sostenere la lotta al cambiamento climatico. Quindi si spegneranno monumenti, città, case, tutto, proprio tutto. Milioni e milioni di persone si uniranno per testimoniare il loro impegno per un futuro migliore, un futuro più sostenibile, è molto importante. Quindi spegni le luci e accendi il cambiamento. Insieme è possibile. E il buon Gabbani mi è diventato testimonial. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E buongiorno a Fulco Pratesi. Buongiorno a voi. Buongiorno qua, Pratesi. Presidente, allora, onorario. Presidente, sull'attenti c'è il presidente. E allora, senta presidente, sì. Abbiamo sentito come Francesco Gabbani, testimonial dell'Ora della Terra, la grande manifestazione internazionale del WWF, torna anche stasera alle 20:30, giusto? Sì, 20:30. Ed è la decima, giusto? La decima edizione a livello globale. Globale. Luci spente ovunque. È partito dalle 8:30 di stamattina dalle isole Samoa, sì, in Pacifico, e arriverà 8:30 di sera qui a Roma, questa grande ola di luci spente, che è una cosa importantissima. Uno dice, ma questa è una cosa simbolica. Non è simbolica. Perché se noi vediamo i simboli poi sono importanti, eh? I simboli sono importanti. I simboli sono importanti poi, Pratesi. Se non ci fossero i simboli, contano come? Questo simbolo è un simbolo però che è legato a fatti concreti. Sì. Se noi vediamo l'Europa di notte, le illuminazioni sono spaventose. L'Italia più di tutte le altre. Cioè sembra giorno praticamente. Significa consumo di energia e non altro. Ma cosa si spegne stasera? A Roma o il mondo, non so, da a Roma per esempio, facciamo a Roma, Colosseo, perché la cupola di San Pietro e il Maxi e tutte le altre grandi cose che ci sono a Roma, ma anche naturalmente a Torino, la Molo Antonelliana e poi, sì, e poi tutto quello di la Torre. Però Pratesi, è vero che, quello che dice, che di notte, se uno guarda, ci sono anche delle foto suggestive da aerei, satelliti, che si vede il pianeta, l'Europa, cioè più ci sono luci, più siamo in zone sviluppate, però noi siamo abituati a associare alla luce anche come dire, un senso di sicurezza, no? Anche di notte, invece bisognerebbe immaginare di spegnerle queste luci, per esempio la notte. È sicuro, sì, certamente cercare di ridurre quanto è possibile, almeno le illuminazioni inutili. Ricordiamoci che noi illuminiamo di notte dei luoghi che magari non serve, certamente la sicurezza è la prima cosa, però ci sono tante illuminazioni superflue e questo significa consumo di energia. E ricordiamoci che l'energia in Italia soprattutto viene soprattutto dai idrocarburi fossili, cioè il petrolio, il gas e altro, che poi portano al cambiamento del clima, e questo è il, diciamo, rapporto indiretto con lo spegnimento delle luci. Mi viene da ridere, sto pensando cosa potrebbe succedere alla Casa Bianca, una luminaria, cioè. No, perché il nuovo presidente dell'Agenzia dell'Ambiente americano è un negazionista, è un fiero negazionista, Pratesi. Per carità, purtroppo. Quindi loro accendono tutto, accendono tutto per dispetto, cioè, fanno esatto. Non è così. Il mondo è bello perché è vario. Certo, ma è una scelta fatta apposta, che già questa notte si dorme un'ora in meno, quindi comunque ci sarà un'ora in meno di luce e in più spegniamo anche o è una casualità che sia capitato nel giorno del rientro dell'ora legale? No, è una cosa mondiale, da moltissimi anni si fa ed è un segnale di collegamento con la gente. Finalmente la gente si rende conto che ci possono essere dei problemi col clima, un clima che sta divorando le specie più belle del pianeta. Pensiamo all'orso polare, io sono stato all'isola Svalbard, ho visto come si erano ridotti questi poveri orsi che non hanno più il ghiaccio delle banchise. Senta, ma Pratesi, ma a parte gli scherzi, no, la questione di Donald Trump negazionista, io ho sentito, l'abbiamo sentita la settimana scorsa, la dichiarazione del nuovo presidente dell'Agenzia per l'Ambiente, che dice, insomma, sull'impatto umano sul clima non c'è accordo, c'è disaccordo, insomma, qualcuno dice di sì, qualcuno dice no. Questo signore qua, però, a me quello che ha colpito è che lui è un politico, non è uno scienziato. Quindi io perché mi devo fidare di lui? Mi sembra che invece gli scienziati siano tutti d'accordo sul fatto che... 99%, cioè, ma c'è ancora qualcuno arroccato su queste bellissime icone dicendo, ah, ma in Groenlandia 500 anni fa era verde e c'era la vite in Germania. Ma tutte cose, tutte sciocchezze, sono cose purtroppo che non tengono conto della rapidità con cui sta cambiando il clima. Con noi stessi ne siamo d'accordo, siamo testimoni purtroppo. Vediamo adesso questo marzo primavera, non si è vista una goccia d'acqua e abbiamo le campagne che stanno soffrendo. Ma siete preoccupati di questo ministro americano negazionista? Perché a me sembra veramente un cambio, nel senso che va bene un ministro meno attento, ma un ministro addirittura che dice l'uomo con la sua azione non può fare assolutamente niente, liberalizziamo tutti i gas di scarico di tutte le automobili, chi se ne frega, tanto non siete preoccupati? Molto, molto preoccupati, anche perché non è che l'America sia un luogo dove i consumi siano bassi, è il luogo dove si consuma di più sul pianeta pro capite. Poi diciamo una cosa, questi politici ecologisti alla rovescia, ricordiamoci che un certo ministro dell'ambiente, Watt si chiamava, sotto il primo George Bush, diceva che i parchi nazionali devono essere aboliti. Ma infatti, Pratesi, mi sembra che l'ambiente sia stato, come dire, cioè è ante litteram un campo di disinformazione, di guerra di opinione, di bufale anche, di depistaggi. Oggi va di moda quello sui vaccini, dire che i vaccini fanno male ed è una castroneria pazzesca. Però voi siete stati vittime di questa cosa da tanto tempo. Come mai l'ambiente viene... ci sono delle lotte intestine di interesse? Perché c'è questo? Ma è comprensibilissimo. Il fatto di voler conservare un patrimonio unico nell'universo, non dico nel pianeta, dell'universo, di natura, di biodiversità, di specie animali e vegetali, di risorse come acqua pulita e aria pulita, è una cosa che può danneggiare moltissimo degli interessi di multinazionali e anche di gruppi industriali che vogliono invece guadagnare sempre di più. È questo che purtroppo la grande battaglia che fanno le persone di coscienza e di buonsenso verso una, diciamo così, un trend, una tendenza a consumare e distruggere tutto. Si vede con i boschi, si vede con tutte le altre cose che sono purtroppo vittima di un sviluppo incontrollato, anche demografico se vogliamo, incontrollato, sì, che non tiene conto dei limiti di questo meraviglioso pianeta che è l'unico su cui che ci sono, che bisogna vita, sempre ricordarsi. E a proposito, partesi di battaglia, scendono in campo anche i carabinieri, ne parliamo tra poco dopo il traffico, perché avete fatto un accordo proprio con i militari dei carabinieri per la tutela del patrimonio naturale. E poi parliamo con lei anche dell'ambientalismo che divide, perché c'è una nuova polemica sulle pale eoliche sollevata proprio anche da membri del WWF, perché pare che ce ne siano troppe e che in alcuni casi fanno male all'ambiente, in particolare agli uccellini. Cerchiamo di capire tra poco perché. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni. Qui si balla, ovviamente, ci si muove. Fulco Pratesi, di nuovo buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo qua, presidente onorario del WWF, Gabbani con Occidentali Scarma, ma lui è il testimonial di questa... È bravissimo. Ecco, Ora della Terra, che scatterà in Italia questa sera alle 20:30, luci spente dove possibile, per insomma testimoniare la lotta ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo più sostenibile. Pratesi, però vogliamo parlare anche di questo accordo che avete fatto con i carabinieri. Insomma, siamo un paese anche un po' strano, dove mandiamo i carabinieri, i militari, ad aiutare le rane a attraversare la strada. Noi ne abbiamo parlato perché è importantissima questa cosa qua, però insomma, cioè, che succede? Insomma, c'è stata una decisione governativa su cui abbiamo molto protestato, di eliminare il Corpo Forestale dello Stato, che era per noi il presidio principale per difendere natura, animali, piante e anche il traffico di animali stranieri importati illegalmente. Non è stata una decisione, Pratesi, abbiamo avuto questa meravigliosa possibilità di collaborare con i carabinieri, che sono tra i vari enti di polizia e altro sono i più amati anche dal popolo, per cui è importante. Ma scusi, Pratesi, nei carabinieri sono confluiti quelli che erano il Corpo Forestale, abbiamo capito bene, cioè quelli che prima facevano quello stanno lì adesso. È una cosa ancora un po' vaga, mi sono informato, ma comunque c'è un nucleo di carabinieri che saranno proprio interessati proprio all'ambientalismo e alle specie forestali, e credo quello sia una maniera di conservare questa specie di presidio per noi insostituibile in confronti della natura, e questo però bisogna ringraziare anche i carabinieri che hanno accettato di fare questo protocollo. E voi farete, con noi, farete, e ci aiuteranno, visto che sono diffusi con le loro stazioni in tutta Italia. Farete la formazione di questi carabinieri. Cosa farete voi del WWF? Gli aiuterete a distinguere un fagiano da una faina? Documenti. Faremo il possibile. Come sempre, noi partiremo dai rospi che devono stare restare la strada, ma quello faranno i volontari nostri. Si parte sempre dai rospi, sempre di lì. Una specie di diffusione preoccupante di crimini sulla natura, bracconaggio soprattutto, ma anche tagli boschivi illegali, di costruzioni abusive. Dobbiamo avere al fianco un ente rapido, conosciuto e oltretutto molto credibile rispetto alle altre autorità dello Stato, e questo ci servirà, e questo servirà anche a noi per poter instillare all'interno degli organismi dei carabinieri tutte le nostre ipotesi, le nostre idee e le nostre esigenze. Senta, Carlo, volevi fare una domanda ancora? No, io volevo passare alla notizia dell'invasione delle pale eoliche. Che cosa sta succedendo? In Meridione nuova invasione, il WWF dice bloccare le autorizzazioni. Il WWF scende in campo contro l'eolico selvaggio perché si è deciso tra Benevento e Avellino di si prevedono un migliaio di torri alte fino a 130 metri ciascuna. Che cosa sta succedendo? Allora, il paesaggio italiano, come tutti sanno e anche voi, è uno dei patrimoni unici nel pianeta. È un patrimonio, il paesaggio agricolo, ma anche il paesaggio naturale, anche il paesaggio storico, è un qualcosa di unico. E certamente l'esigenza di energie alternative è indispensabile, però bisogna anche pensare quando questi strumenti, questi elementi altissimi, importanti, possono danneggiare una situazione diciamo molto delicata, vicino ai bellissimi borghi medievali, vicino a parchi nazionali, e anche in luoghi dove ci sono dei passaggi di animali rari. Ricordo che in Spagna si è realizzata, quando sono state fatte queste prime pale eoliche, la moria di avvoltoi, aquile ed altri rapaci interessanti. Bisognerebbe mettere dei semafori pratesi per evitare che, cioè, per dirigere il traffico dei volatili. Ma c'è una stima, quanti volatili rimangono? Ci sono degli uccelli che rimangono colpiti dalle pale eoliche? Succede regolarmente? Certo, l'importante è che avere un minimo di buonsenso sempre e di senso di misura, perché ogni cosa è fatta in maniera irresponsabile e eccessiva può danneggiare. Perché noi non sapremo in effetti, scusi Pratesi, è difficile scegliere, perché qua chiariamo bene i termini, cioè da un lato si tratta di produrre energia rinnovabile, pulita, e siamo tutti contenti, dall'altra ci sono i poveri uccellini che passano e che vengono uccellini che passano, questa è l'ultima cosa, sembra una cosa ridicola, anche se ne ha un interesse non secondario. L'importante è il paesaggio, ma il paesaggio italiano non è un paesaggio qualsiasi, il paesaggio italiano è un patrimonio unico. Certamente se queste pale eoliche sono messe con circospezione, messe in punti dove non ci siano, diciamo, vincoli ambientali o paesistici, si possono anche mettere, però naturalmente, come dico, con attenzione. Però forse vanno aggiunte vanno aggiunte al paesaggio italiano. Il nuovo paesaggio italiano comprende anche le pale eoliche al posto delle centrali nucleari o dei pozzi di petrolio, che mi sembrano peggiori, o sbagliamo? Forse una riduzione di consumi sarebbe una delle prime obblighi per chi vive in un paese che vuole chiamarsi civile, cioè cercare di migliorare l'efficienza e ridurre i consumi. L'esperienza che faremo stasera alle 8:30 fa capire l'importanza di rendere più efficienti i nostri consumi, ma anche ridurli, perché non possiamo continuare a produrre e a consumare energia in maniera irresponsabile. Ricordiamoci che l'aumento di consumo e di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentato ultimamente sopra i 400 parti per milione, cosa che non capitava da milioni di anni. Certo, e l'ora della Terra serve anche a questo, ridurre i consumi. Bravo, io aggiungo inutili, aggiungiamo sempre inutili, perché sennò la gente pensa a casa, oddio, devo stare senza fare la doccia, come ha detto lei, che faceva la doccia una volta alla settimana, però magari non tutti, oppure devo spegnere la luce, devo stare al buio, ho paura. No, i consumi inutili, cioè le luci quando la stanza è vuota, oppure nei palazzi la sera quando non c'è nessuno all'interno degli uffici, ci sono spesso luci accese, abbassarle o spegnerle, nei negozi, nei concessionari di auto la notte. Ecco, queste cose qua, le luci inutili, i consumi inutili, quelli si possono, credo, ridurre. Una bella parola, attenzione. Pensavo che fosse... E responsabilità nei confronti di coloro che vivono in questo pianeta, e sono sempre di più. Ricordiamoci che tra poco saremo 10 miliardi. E tutti noi volessimo... Quando è che saremo 10 miliardi, Pratesi? Tra quanto tempo? 50 anni saremo al massimo, saremo 10 miliardi, anzi ancora prima. E allora, sai, se tutti dovessero consumare come un americano o anche come un polacco, già sarebbe un disastro. Un polacco? Perché i polacchi consumano... No, un polacco per dire una cosa meglio. Per dire una cosa meglio. Va bene, grazie Pratesi, buona giornata, mi raccomando. Un'economia che si può mettere a metà. 20:30, l'ora della Terra. Spegniamo la luce. Grazie Pratesi, buona giornata. Grazie. Buona giornata. I was told there'll be no one to call along when I

Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta tornato a trovarci Marco Ferrari, è un genitore dell'Associazione Genitori Antismog. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Per la verità, presidente dell'Associazione Genitori Antismog Italia, popolo di presidenti. Sì. Allora. Oggi tutti i presidenti abbiamo ascoltato. A piedi, in bicicletta, coi mezzi pubblici, addirittura in skateboard, in qualunque modo, purché fosse un modo sostenibile e che non produca inquinamento. Così avete chiesto in questa settimana ai bimbi delle scuole milanesi di andare a scuola, una specie di grande concorsone, un gioco. Tutto tranne l'auto. Tutto tranne l'auto. Com'è andata? È andata molto bene, anche quest'anno abbiamo avuto 20.000 partecipanti come l'anno scorso. Questo è il settimo anno e noi siamo partiti appunto 7 anni fa con 5.000 bambini, ci sembrava già allora un numero enorme. Abbiamo quadruplicato adesso. E come mai quest'anno non siamo riusciti ad incrementare questo 20.000? Avremmo voluto sentire che eravate 25 o di più. Guarda, sono già numeri enormi. Consideriamo che la metà delle scuole milanesi, sì, la metà degli alunni delle scuole primarie milanesi partecipa a questo progetto. Beh, allora siamo quasi, cioè, uno su due. Avete quasi esaurito il bacino, diciamo, più di questo non potete fare. A questo punto tocca al comune fare qualcosa. Però il comune è sponsor di questa iniziativa, vi ha dato una mano. Certo, ci ha dato una mano perché ha messo a disposizione i premi per le scuole più virtuose. Quindi i bambini, le scuole che si recheranno con un maggior numero di mezzi sostenibili a scuola e la scuola che invece incrementerà l'uso dei mezzi sostenibili rispetto all'anno scorso, perché noi premiamo anche il cammino, il percorso, quindi il progresso, ha messo a disposizione uno spettacolo al Teatro alla Scala e uno spettacolo al Piccolo Teatro. Però in realtà anche se andate a piedi vi state espandendo, perché state uscendo anche da Milano, perché ho visto che c'è anche una scuola di Assago quest'anno. Quanto è Milano-Assago a piedi? È lunga? Esatto, no, perché poi sì, il tema è sempre quello dell'area metropolitana. Però volevo dire una cosa, noi non è che dobbiamo convincere i bambini ad andare a scuola. Certo. I bambini, e questo viene fuori anche dal progetto, sono felicissimi di andare a scuola a piedi. Io porto tutti i giorni, spesso mia figlia, per fortuna la scuola è vicina a casa a piedi, ed è lei è felicissima. Se le dicessi di prendere la macchina, credo che mi sputerebbe in un occhio. Quindi esatto, sono i genitori che vanno convinti. Però i genitori hanno delle attenuanti, bisogna dire, perché quando uno abita molto lontano o in periferia o in zone dove la scuola è veramente lontana, oppure devi fare delle strade, delle provinciali dove a piedi non puoi avventurarti, perché poi l'Italia è fatta anche di questo, di tanti paesi. Certo. Però a Milano si può dire che se uno sta in città il modo per andare a scuola a piedi c'è, o in bici. Soprattutto se ci si mette tutti insieme, perché una volta che si è in 20.000 a camminare, anche se blocchi la provinciale, è più difficile farsi mettere sotto. Ma chi ha vinto? Non si sa ancora, lo sveleremo poi nelle prossime settimane. Noi volevamo lo scoop, invece niente. No, i dati devono essere ancora elaborati, ci sono 80 scuole che manderanno, anzi noi andremo a ritirare i materiali con dei bike messenger, quindi sempre la distribuzione del materiale, il ritiro del materiale viene fatto anche questo in modo sostenibile con dei corrieri in bici. Si faranno poi le classifiche e si comunicheranno i vincitori. Ci sarà poi un evento finale che faremo al Museo di Arte Contemporanea. Bene, ho capito bene che c'è anche un premio per il percorso più bello? No, ho capito il male. Premio quest'anno, ogni anno noi ci inventiamo qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo inventato come lavoro collettivo, al di là della gara appunto che quella riguarda le classi e le scuole, abbiamo ideato un percorso, un gioco da fare in classe, il classico gioco dell'oca rivisitato. Mm-hmm. Quindi i bambini in ciascuna classe avranno da creare le caselle di questo gioco dell'oca, che andranno poi a comporre un grande gioco con cui loro potranno giocare insieme alle maestre discuteranno sul tema di quest'anno, che è il rispetto delle regole. Quindi dovranno ideare questo gioco dell'oca componendo una città ideale in cui tutte le persone convivono rispettando le regole, quindi non solo pedoni, ciclisti, ma anche automobili. Certo, cioè, anche i ciclisti, mi raccomando, perché so che molti di voi sono dei ciclisti, a volte i ciclisti sono un po' indisciplinati, ci sono delle ragioni per cui questo accade, perché spesso le strade sono strette, allora magari uno va sul marciapiede, però cerchiamo di tollerarci tutti, perché sennò poi diventa una guerra sterile tra pedone e ciclista ed è sempre brutto. Marco, voglio chiederti, ma alla fine, no, chi vince veramente è quella famiglia che, dopo aver fatto questa prova, Nati per camminare, poi decide veramente di fare tutti i giorni questa scelta di andare a piedi. C'è una storia, qualcuno che mi puoi raccontare, di qualcuno che si è convertito, no? Proprio la conversione, dice: ah, non ci avevo mai pensato. Sulla via di Damasco, volevi dire. Esatto. Sulla via di scuola. Esatto, perché il tema è anche culturale, perché nei tragitti casa-scuola in una città come Milano, a volte appunto prendere la macchina, uno lo fa per cultura, pensa che sia più comodo, ma quando sì. Poi fa la prova sperimentata, che invece camminare con i bambini, si scoprono cose nuove, si scopre il quartiere, si vede che la mattina il panettiere ha il pane fresco, il giornalaio, infatti noi quest'anno l'abbiamo anche legato all'altro progetto, quello dei negozi amici dell'aria, no? Quindi riscoprire il quartiere. Quindi loro si rendono conto che alla fine, magari in termini di tempo, è proprio uguale, però c'è un vantaggio da un punto di vista della qualità della vita, e quindi dicono: sì, io prendevo la macchina perché avevo l'idea che era più veloce e più certo, comodo. Ma anche se ci fosse da impiegare, che ne so, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti di più, che cosa sono 5 minuti in una giornata? Veramente, esatto, che cavolo esatto. Sono? Non sono niente, messi in confronto con una passeggiata bella come la stai raccontando tu con tuo figlio, tua figlia. E poi spesso non sono 5 minuti in più, nel senso che uno anche che magari più, sì. Deve prendere l'autobus e dice: devo uscire 10 minuti prima, oppure non so se passa, oppure un giorno che ne passa uno anche solamente ogni 12 minuti, alla fine ci metti mezz'ora con l'autobus e mezz'ora a piedi. Esatto, io c'è cioè, nella scuola dove sta mia figlia, ad esempio, c'è un genitore che lui prende l'auto per recarsi al lavoro, perché lavora fuori Milano e quindi certo. È obbligato a farlo. Allora cosa fa? Prende, mette il bambino in auto, va a scuola e poi lo lascia lì e poi prosegue il tragitto. Cosa ha fatto? Lui si è reso conto che questa cosa era per il bambino era un po' diciamo frustrante, perché viene usato come un pacco. Allora lui una volta a settimana parcheggia l'auto vicino alla scuola e accompagna il bambino a scuola così a piedi. A piedi, a questo momento anche di socialità, per poter parlare, perché lavorando così si ha meno tempo da passare con i propri figli, e poi prosegue il suo percorso prendendo la macchina. Quindi magari la sera prima deve parcheggiarlo un po' più lontano, appunto sono quei famosi 5 minuti, ma ha guadagnato poi in qualità della vita. Certo, è molto giusto, quindi, la qualità della vita contro l'ansia di essere in ritardo. E, quei 5 inutili esatto. Minuti che recuperi, che ci fai poi con i 5 minuti che recuperi? A forza di 5 direbbero i miei, insomma. Grazie Marco Ferrari, dei genitori antismog di Milano. Grazie mille. L'iniziativa Siamo Nati per Camminare. Cari ascoltatori, noi invece siamo arrivati in chiusura. A furia di camminare, ci sentiamo domani. Esatto. 8:30, 10 con Si può fare, naturalmente. Grazie a tutti, Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Ricella in regia. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. E vi ricordiamo che oggi si dorme un'ora in meno, quindi domani chissà, saremo puntuali, saremo in ritardo. Mistero. Chissà sorpresa. Se questo avrà delle ripercussioni anche sul nostro podcast.